Capitolo 35. Non partii per Cambridge il giorno seguente. Differii la partenza di una settimana e in quel tempo mi fece sentire quale dura punizione poteva infliggere un uomo buono, maturo, coscienzioso e implacabile quando si ritiene offeso. Senza un solo atto di aperta ostilità, senza una parola di rimprovero, egli si studiava di convincermi che avevo superato i limiti della sua tolleranza. Non che St. John nutrisse uno spirito vendicativo o che volesse torcermi un capello, se fosse stato in suo potere farlo. Per natura e per principi egli era superiore al meschino sentimento della vendetta. Egli mi aveva già perdonata di aver respinto il suo amore, ma non aveva dimenticato le mie parole e credo che non le avrà dimenticate per tutta la vita. Vedevo nei suoi occhi, quando si rivolgeva verso di me, che quelle parole stavano scritte nell'aria tra lui e me, e sebbene io non parlassi, esse risuonavano alle sue orecchie col suono della mia voce, mentre la loro eco mi riportava la sua risposta. Non evitava di parlare con me, anzi ogni mattina mi invitava, come sempre, presso la sua scrivania, e temo che l'uomo corruttibile che era in lui provasse un piacere non condiviso dal puro cristiano a mostrare con quanta abilità era in grado, parlando e comportandosi come al solito, di togliere ad ogni frase e ad ogni parola quell'interesse e quell'attrattiva che un tempo contribuivano a dare un particolare fascino e un tono di austerità al suo modo di esprimersi e ai suoi modi. Per me egli non era più un uomo di carne, ma di marmo. Il suo occhio era una fredda, livida gemma azzurra, la sua lingua uno strumento per articolare le parole e null'altro. Tutto questo era per me una tortura, una raffinata, dolorosa tortura. Mi sentivo sempre in uno stato di ardente indignazione, come sconvolta da un profondo turbamento che mi urtava e mi opprimeva. Sentivo che se fossi divenuta sua moglie, quell'uomo buono, puro, come una sorgente nascosta tra le rocce, avrebbe potuto uccidermi senza far uscire una stilla di sangue dalle mie vene e senza che la sua coscienza cristallina ne provasse il minimo rimorso. Mi resi conto di questo ogni volta che cercai di riconciliarmi con lui. Nessuna pietà venne incontro alla mia pietà. Egli era capace di non soffrire per il mio allontanamento e di non desiderare una riconciliazione, e sebbene più di una volta le mie lacrime avessero bagnato la pagina su cui ambedue eravamo curvi, esse non producevano su di lui maggior effetto che se il suo cuore fosse stato di pietra o di metallo. In quei giorni, inoltre, era più affettuoso del solito con le sue sorelle. Egli temeva che la sua freddezza non fosse sufficiente a convincermi che egli mi aveva bandita e voleva rafforzare questo mio atteggiamento con la forza del contrasto. Sono certa che egli agiva così non per malvagità, ma per principio. La sera che precedette la sua partenza, lo vidi passeggiare solo in giardino e ricordandomi che quest'uomo, ora così lontano da me, mi aveva una volta salvato la vita e che inoltre eravamo anche parenti, fui spinta a tentare per l'ultima volta di riconquistare la sua amicizia. Uscii di casa e mi avvicinai a lui, che era in quel momento appoggiato al cancello. «St. John», dissi, «sono infelice perché tu sei ancora in collera con me. Cerchiamo di essere amici». «Spero che noi si sia amici», rispose freddamente, continuando a contemplare la luna. «No, St. John, non siamo più amici come prima e tu lo sai». «Non lo siamo? Non è vero? Da parte mia ti auguro ogni bene». «Ti credo, St. John, perché sono sicura che tu non saresti capace di augurar male ad alcuno, ma come tua cugina desidero un affetto più profondo dell'universale filantropia che tu estendi agli estranei». «Naturalmente», egli disse, «il tuo desiderio è legittimo, ma io sono ben lontano dal considerarti un'estranea». Queste parole, pronunciate in tono tranquillo e freddo, mi mortificarono e mi offesero. Se mi fossi lasciata trascinare dall'orgoglio e dalla collera, lo avrei immediatamente lasciato. Ma vi era in me qualcosa di più forte di quei sentimenti. Veneravo profondamente il talento e i principi di mio cugino, e la sua amicizia era per me assai importante. Perderla sarebbe stato per me molto doloroso. Non volevo quindi rinunciare così presto al tentativo di riconquistarla. «Dobbiamo separarci così, St. John?» «E quando partirai per l'India mi lascerai senza una parola più gentile di quelle che hai testé pronunciate?» A questo punto egli smise di contemplare la luna e si rivolse a me. «Quando partirò per l'India, Jane, ti lascerò? Come, non verrai con me? Mi hai detto che non potrò venire se non diverrò tua moglie. E davvero non vuoi sposarmi? Persisti nella tua decisione?» Non puoi immaginare, lettrice, quale senso di terrore questi individui freddi sappiano immettere nel gelo delle loro domande. La loro collera è simile al precipitare di una valanga e il loro disappunto fa pensare all'improvviso frangersi di un oceano ghiacciato. No, St. John, non ti sposerò. Persisto nella mia determinazione. La valanga si era smossa ed era scesa ancora un poco, ma non era ancora piombata a valle. Di nuovo rifiuti? Domandò. Prima perché non mi amavi, ora perché mi odi. Se ti sposassi mi uccideresti, mi stai già uccidendo. Le sue labbra e le sue guance impallidirono. Ti ucciderei? Ti sto uccidendo? Non è lecito pronunciare simili parole, sono violente, insincere, indegne di una donna. Esse rivelano una mente sconvolta e meritano un severo rimprovero. Sono imperdonabili, ma è dovere del cristiano perdonare al suo simile 77 volte. Era finita. Mentre cercavo di cancellare dalla sua mente le tracce delle mie precedenti offese, vi avevo impresso un altro profondo segno e lo avevo impresso a fuoco. Ora, dissi, mi odierai. È inutile che io tenti di riconciliarmi con te, mi accorgo che mi sarai sempre nemico. Queste parole non furono che un nuovo colpo per lui, forse il peggiore, poiché racchiudevano la verità. Le sue labbra pallide si contrassero in un fuggevole spasmo e mi resi conto di quale ira terribile avessi suscitato in lui. Il mio cuore batteva forte. Interpreti male le mie parole, dissi, afferrandogli la mano. Non ho alcuna intenzione di addolorarti o di offenderti. Sorrise amaramente e liberò bruscamente la sua mano dalla mia. Ora, disse dopo una breve pausa, ritratteresti la tua parola e non verresti più in India del tutto, presumo. Certo che verrò, ma come tua assistente, risposi. Vi fu un lungo silenzio. Non saprei dire quale lotta si combattesse in lui, in quel momento, tra la natura e la grazia. Un bagliore strano brillava nei suoi occhi e un'ombra insolita velava il suo volto. Finalmente si decise a parlare. Ti ho già dimostrato come sia assurdo che una donna della tua età accompagni all'estero un giovane come me. Te ne ho parlato in modo tale che non era più il caso di ritornare sull'argomento. Mi dispiace per te che tu abbia voluto insistere. Lo interruppi, poiché tutto quanto risuonava come un rimprovero mi dava coraggio. Ritrova il tuo abituale buonsenso, St. John, perché in questo momento stai sragionando. Pretendi di essere offeso per quanto ti ho detto, ma non lo sei, poiché col tuo spirito superiore non puoi ingannarti sulle mie intenzioni. Lo ripeto, sarò la tua assistente se vorrai, ma non sarò mai tua moglie. Egli impallidì nuovamente, ma come prima controllò perfettamente i suoi sentimenti. Rispose enfaticamente, ma con calma, «Un assistente che non sia mia moglie non potrà mai venire con me». Ma sei sincera nella tua offerta. Parlerò a un missionario in città la cui moglie ha bisogno di un assistente. Il tuo patrimonio ti renderà indipendente dagli aiuti finanziari della missione e tu potrai risparmiarti la vergogna di mancar di parola e di disertare l'esercito nel quale ti eri impegnata di servire. Ora, come la lettrice sa, non avevo pronunciato mai alcuna promessa, né avevo preso alcun impegno e le sue parole erano veramente troppo dure e troppo autoritarie. Non si tratta di disonore, né di mancata promessa, e tantomeno di diserzione. Non mi sento minimamente obbligata a recarmi in India, tantomeno con estranei. In tua compagnia mi sarei arrischiata a partire perché ti ammiro, ho fiducia in te e come una sorella ti amo, ma sono convinta che in ogni caso, con chiunque io andassi, non vivrei a lungo in quel clima. Ah, tu hai paura di te stessa, disse facendo una smorfia. Certo, Dio non mi ha dato la vita perché la gettassi via. E il fare quello che tu desidereresti, credo, equivarrebbe a un suicidio. Del resto, prima di decidermi a lasciare definitivamente l'Inghilterra, vorrei essere sicura di non essere più utile rimanendo qui che non partendo. Cosa vuoi dire? Ah, sarebbe inutile tentare di spiegare. È questo un punto sul quale ho avuto per molto tempo dubbi assai penosi e non potrei partire prima di averli rimossi. So dove volge il tuo cuore e a cosa si attacca. L'oggetto che lo interessa è illegale ed empio. Da molto avresti dovuto allontanarlo da te e dovresti arrossire nell'alludervi. Non stai pensando al signor Rochester? Era vero, confessai rimanendo in silenzio. Vorresti andare a cercarlo? Bisogna che sappia che cosa è accaduto di lui. Non mi rimane che ricordarmi di te nelle mie preghiere e pregare il Dio che con la sua immensa misericordia non faccia di te una reproba. Credevo di aver trovato un'eletta dal Signore, ma il Dio non vede con gli occhi degli uomini. Sia fatta la sua volontà. Aprì il cancello e si allontanò nella valle, scomparendo rapidamente alla mia vista. Rientrando in sala, trovai Diana in atteggiamento pensieroso presso la finestra. Diana era lievemente più alta di me. Posò la mano sulla mia spalla e, fissandomi, esaminò il mio volto. «Jane», disse, «in questi giorni ti vedo sempre pallida e agitata. Sono certa che vi ha una ragione. Dimmi cosa sta succedendo fra te e St. John. Vi ho visti dalla finestra. Scusami se mi comporto come una spia, ma è da molto che vorrei sapere qualche cosa. St. John è così strano. Si interruppe e poiché io non parlai, riprese. Sono sicura che mio fratello accarezza qualche idea nei tuoi riguardi e per qualche tempo ha dimostrato verso di te una premura quale non aveva mai avuto verso nessun'altra. A qual fine? Io vorrei che egli ti amasse. Ti ama, Jane? Presi la sua mano fredda e la posai sulla mia fronte ardente. No, Diana, affatto. E allora perché ti segue sempre con gli occhi, cerca di rimanere spesso solo con te e ti vuole continuamente al suo fianco? Mary ed io abbiamo pensato che egli volesse sposarti. Infatti, egli mi ha chiesto di divenire sua moglie. Diana batté le mani. Questo è proprio quello che speravamo e tu vorrai sposarlo, vero Jane? Egli così rimarrà in Inghilterra. Nemmeno per sogno, Diana, il suo solo desiderio sposandomi è di procurarsi una compagna che collabori con lui nella sua missione in India. Cosa? Egli vuole che tu vada in India con lui? Sì. Che follia, ella esclamò. Non resisteresti 3 mesi laggiù, ne sono certa. Tu non andrai, non avrai per caso acconsentito, Jane? Ho rifiutato di sposarlo. E per conseguenza si è indispettito. Profondamente. Egli non mi perdonerà mai, temo. Eppure gli avevo proposto di accompagnarlo come una sorella. Sarebbe un'altra pazzia, Jane. Pensa alla fatica e ai disagi che dovresti sopportare. Una fatica incessante che uccide anche gli individui più forti. E tu sei debole, Jane. St. John, tu lo conosci, ti chiederebbe l'impossibile. Non ti permetterebbe di riposare neppure nelle ore calde. Purtroppo mi sono accorta che tu cedi sempre alla sua volontà. Mi stupisce che tu abbia trovato il coraggio di dirgli di no. Non lo ami, Jane? Non come marito. Eppure è un bell'uomo. Ed io, Diana, sono così scialba. Non andiamo quindi bene l'uno per l'altra. Scialba, tu? Tutt'altro. Sei troppo graziosa e troppo buona per essere bruciata viva a Calcutta. E nuovamente mi scongiurò di mettere da parte l'idea di seguire suo fratello. Devo rinunziarvi, risposi, poiché quando poco fa gli ripetei la mia offerta di seguirla come assistente, rimase scandalizzato della mia mancanza di modestia. Si mostrava convinto che io avessi commesso un'azione sconveniente nel proporgli di accompagnarlo senza prima essere divenuta sua moglie. Come se non avessi per prima cercato di trovare in lui un fratello e non l'avessi abitualmente considerato come tale. Jane, cosa ti fa dire che egli non ti ama? Vorrei che tu stessa potessi udirlo parlare di questo argomento. Egli ha ripetutamente spiegato che non è per se stesso, bensì per la sua missione, che desiderava sposarmi. Mi ha anche detto che io non sono fatta per l'amore, ma per il lavoro, il che è certamente vero, ma secondo me, se non sono fatta per l'amore, ne deriva che non sono fatta neanche per il matrimonio. Non sarebbe strano essere legata per tutta la vita ad un uomo che non vedesse in me altro che un utile strumento. Insopportabile, innaturale, fuori da ogni dubbio. E poi, continuai, sebbene io abbia soltanto un affetto fraterno per lui, essendo costretta a divenire sua moglie, potrei pensare alla possibilità di concepire per lui un amore strano e torturante, perché egli è un uomo di genio e sovente vi è nel suo sguardo, nei suoi modi e nella sua conversazione, una particolare, quasi eroica grandezza. In tal caso la mia sorte diverrebbe indicibilmente infelice. Egli non vorrebbe che io lo amassi, e se io mostrassi i miei sentimenti, egli mi convincerebbe che essi sono cosa superflua, da lui non richiesta e a me non conveniente. So che sarebbe così. Eppure St. John è buono, disse Diana. È buono e grande, ma dimentica nella sua grandezza i sentimenti e le aspirazioni di coloro che sono su un piano inferiore al suo. È meglio quindi che si stiano lontani da lui, altrimenti egli finirebbe col calpestarli. Ecco che viene, ti lascio, Diana. Vedendolo entrare dal giardino, corsi su per le scale. Ma a cena fui costretta ad incontrarmi nuovamente con lui. Egli si mostrò calmo, come al solito. Pensavo che non mi avrebbe neppure rivolta la parola ed ero certa che avesse rinunciato ai suoi progetti di matrimonio. Mi accorsi invece di essermi sbagliata. Egli si rivolse a me come se nulla fosse, con il suo comportamento abituale di quegli ultimi tempi, un comportamento scrupolosamente educato. Senza dubbio aveva invocato l'aiuto dello Spirito Santo per dominare la collera che lo sconvolgeva ed ora credeva di avermi perdonata una volta di più. Come lettura serale scelse il 21° capitolo dell'Apocalisse. Era sempre piacevole ascoltarlo e seguire le parole della Bibbia che uscivano dalle sue labbra. Mai, in altre occasioni, la sua voce risuonava così dolce e solenne ad un tempo. Mai il suo atteggiamento era così imponente nella sua nobile semplicità, come quando riferiva il messaggio di Dio. Quella sera la sua voce aveva un tono più solenne del solito e le sue movenze erano teatrali. La luna di maggio che penetrava attraverso le finestre senza tendine rendeva quasi superflua la luce delle candele sulla tavola. aprì la grande vecchia Bibbia e scorrendone le pagine descrisse la visione del nuovo cielo e della nuova terra e disse come Dio sarebbe venuto a fianco degli uomini, come avrebbe asciugato le lacrime dai loro occhi e promesso che un giorno non vi sarebbe stata più morte, né dolori, né pianto, perché il mondo, così come noi lo conosciamo, sarebbe scomparso. Le parole che seguirono mi colpirono stranamente, specialmente quando mi accorsi che nel pronunciarle, con voce indescrivibilmente alterata, egli si rivolgeva a me. «Colui che verrà sarà erede di tutte le cose, ed io sarò il Dio suo ed egli sarà mio figlio. Ma», lesse lentamente distaccando le sillabe, «i timidi, gli increduli, avranno il loro posto nel lago di fuoco e di lava, che è la seconda morte». Da quel momento capii quale fosse il destino che St. John temeva mi fosse riservato. Un calmo, controllato trionfo misto ad una voluta severità sottolineò la lettura degli ultimi versi del capitolo. Egli era convinto che il suo nome fosse già scritto nel libro della vita dell'agnello divino e aspettava l'ora in cui sarebbe stato ammesso alla città della gloria. Là non vi è bisogno di sole o di luna, poiché tutto si illumina al cospetto di Dio e l'agnello stesso è luce. Nella preghiera che seguì, la lettura del capitolo, egli spiegò tutta la sua energia e il suo zelo. Era ardente nella lotta a fianco di Dio e la concludeva con una conquista. Supplicava forza per i cuori deboli, una guida per gli smarriti, un ritorno anche all'ora estrema per coloro che erano stati fuorviati dalle tentazioni del mondo e della carne. Egli chiedeva, implorava, invocava una spada di fuoco. L'ardore mistico è sempre solenne. Dapprima, mentre ascoltavo la preghiera, ero attonita. Poi, a mano che il suo tono si faceva più alto, ne rimanevo sempre più commossa e alla fine ebbi paura. Egli sentiva così sinceramente la grandezza e la sincerità di quanto veniva dicendo, che quanti lo ascoltavano non potevano non approvarlo, non potevano non sentire allo stesso modo. Terminata la preghiera, ci accomiatammo da lui. Egli doveva partire molto presto il mattino seguente. Mary e Diana lo abbracciarono ed uscirono. Mi pare che egli stesso le avesse pregate di allontanarsi, gli porsi la mano e gli augurai un felice viaggio. «Grazie, Jane. Come ho detto, ritornerò da Cambridge tra 15 giorni. Hai quindi tempo per prendere una decisione. Se ascoltassi l'orgoglio umano, non ti parlerei più di matrimonio, ma io seguo il mio dovere e tengo ben fermo davanti a me il mio primo scopo, fare il possibile per la gloria di Dio. Il mio maestro è paziente, io pure lo sarò. Non voglio abbandonarti alla perdizione, come un vascello maledetto. Pentiti e decidi fino a quando sei in tempo. Rammentati che ci è ordinato di lavorare fino a che dura il giorno, perché la notte si avvicina e da allora nessuno può più lavorare. Ricordati il destino degli dei pagani che vollero tutte le gioie di questa vita terrena. Il Dio ti dà la forza di scegliere la parte migliore che nessuno ti potrà mai portare via». Mi pose la mano sul capo pronunciando le ultime parole. Aveva parlato con veemenza e con dolcezza. Il suo sguardo non era quello di un innamorato che contempla l'amata, ma quello di un pastore che richiama la pecorella smarrita, o piuttosto dell'angelo che custodisce l'anima che gli è stata affidata. «Tutti gli uomini di genio, abbiano o no sentimento, siano zelanti o despoti, purché siano sinceri, hanno momenti sublimi nei quali soggiogano e dominano. Senti per St. John una così ardente venerazione che mi trovai d'un tratto a quel traguardo che per tanto tempo avevo evitato. Fui tentata di rinunciare a lottare contro di lui, di lasciarmi trascinare dal torrente della sua volontà e di sacrificare la mia vita. Mi sentivo dominata da lui, quasi come ero stata dominata altre volte in modo diverso, da un'altra persona. Ero pazza, tanto allora come ora. Cedere allora sarebbe stato un errore di principio, cedere ora sarebbe stato un errore di giudizio. Me ne rendo conto ora che posso guardare quella crisi attraverso il sereno diaframma del tempo. Allora non avevo coscienza della mia follia. Mi sentivo impotente sotto l'influsso di quel sacerdote. Dimenticavo la mia riluttanza, i miei timori svanivano, la mia volontà era paralizzata. L'impossibile, il mio matrimonio con St. John, diveniva ad un tratto il possibile. Tutto cambiava in un istante, con una svolta improvvisa. La religione chiamava, gli angeli mi attiravano a sé, Dio comandava, la vita si svolgeva dinanzi a me come un rotolo di pergamena, i cancelli della morte si aprivano, mostrandomi l'aldilà. Mi pareva che per essere sicura e felice avrei dovuto sacrificare ogni bene terreno in un attimo. L'oscura stanza era piena di visioni. «Non potresti deciderti ora?» chiese il missionario. La domanda era stata posta con tono garbato e egli mi attirò a sé con gentilezza. Oh, che dolcezza! Come essa è più potente della forza! Avrei potuto resistere all'ira di St. John. Mi piegavo come un giunco alla sua gentilezza. Eppure sapevo che se mi fossi piegata un giorno mi sarei pentita. La sua natura non era mutata in un'ora di solenne preghiera, si era soltanto elevata. Potrei decidermi se fossi certa, risposi, se fossi convinta che tale è la volontà di Dio, potrei giurare di divenire tua moglie accada quello che accada. Le mie preghiere sono esaudite, esclamò St. John, premendo maggiormente la mano sulla mia testa, come per rivendicare il proprio diritto. Mi circondò col braccio, come se mi amasse, ho detto come, poiché sapevo cosa volesse dire amare, ma come lui avevo ormai posto l'amore fuori questione e pensavo soltanto al dovere. Lottavo contro l'oscurità che mi ottenebrava come se dense nubi avvolgessero la mia mente. Desideravo sinceramente, ardentemente, profondamente di fare il mio dovere e soltanto questo. Mostrami, mostrami il cammino, imploravo al cielo. Ero più che mai eccitata e la lettrice giudicherà se ciò che avvenne dopo fu effetto del mio eccitamento. La casa era silenziosa perché credo che all'infuori di St. John e di me tutti si erano ritirati a dormire. La candela stava spegnendosi, la stanza era illuminata dalla luna. Il mio cuore batteva veloce e affannoso, ne udivo i palpiti. Ad un tratto si arrestò nel momento in cui un'inesprimibile sensazione mi scosse e mi attraversò tutta dalla testa ai piedi. Una sensazione che non somigliava ad una scossa elettrica, ma che era altrettanto acuta, insolita e violenta. Essa agì sui miei sensi come se prima d'allora fossero stati immersi in un torpore dal quale venivano scossi ed obbligati a svegliarsi. Essi si destarono ansiosi, gli occhi e le orecchie tesi, mentre la carne fremeva nelle mie membra. «Cosa hai sentito? Che cosa hai visto?» chiese St. John. «Non avevo visto nulla. Avevo sentito soltanto una voce che chiamava da lontano. Jane! Jane! Jane!» E null'altro. «Oddio, cos'è?» mormorai. Avrei dovuto dire dov'è, perché la voce non sembrava provenire dalla stanza, né dalla casa, né dal giardino. Non proveniva dal cielo, né dalla terra, né da sottoterra. L'avevo sentita, dove e come mi sarebbe stato impossibile dire. Eppure, era la voce di un essere umano, una voce familiare, una voce amata e ben presente alla mia mente, la voce di Edward Fairfax Rochester. Era una voce dolorosa, selvaggia, eterea, supplicante. «Vengo!» gridai. «Aspettami, vengo!» Corsi alla porta e guardai nel corridoio. Era buio. Uscii nel giardino. Era deserto. «Dove sei?» esclamai. L'eco delle colline ripeté. «Dove sei?» Rimasi ad ascoltare. Il vento stormiva tra gli abeti dolcemente. Tutto era solitudine e silenzio notturno. «Bando alle superstizioni», commentai, vedendo un'ombra nera levarsi dai cespugli presso il cancello. «Non è un inganno né un magico effetto della tua potenza, è opera della natura. Essa si è destata e non ha compiuto alcun miracolo, bensì soltanto quanto stava in lei di fare». Mi allontanai da St. John, che mi aveva seguita e voleva trattenermi. Era il momento per me di prendere il sopravvento. La mia volontà era in gioco e non mancava certo di forze. Gli proibii di pormi domande o di farmi osservazioni e gli chiesi di lasciarmi sola. Dovevo e volevo restar sola. Egli obbedì. Quando vi è sufficiente energia per comandare, l'obbedienza non si fa aspettare. Salì nella mia camera e mi chiusi dentro. Inginocchiata mi pregai alla mia maniera, una maniera molto diversa da quella di St. John, ma altrettanto efficace. Mi sembrava di avvicinarmi molto al puro spirito e la mia anima, prostrata ai suoi piedi, gli esprimeva una sconfinata gratitudine. Terminata la preghiera di ringraziamento, mi alzai. Presi una decisione e mi coricai, senza incertezze e con le idee chiare, ansiosa che si facesse giorno. Capitolo 36. Mi alzai alle prime luci dell'alba. Per un'ora o due fui occupata a riassettare la mia stanza, gli armadi, i cassetti, desiderando che tutto rimanesse in ordine durante la mia breve assenza. Mentre ero così occupata, udii St. John che usciva dalla sua camera. Egli si fermò davanti alla mia porta. Temevo che bussasse, invece mi fece passare sotto la porta un pezzetto di carta che mi affrettai a prendere. Vi erano scritte queste parole. «Mi hai lasciato improvvisamente ieri sera. Se fossi rimasta un momento di più avresti posato la tua mano sulla croce del cristiano e sulla corona dell'angelo. Mi aspetto una tua decisione al mio ritorno tra 15 giorni. Nel frattempo veglia e prega per non essere indotta in tentazione. Lo spirito credo è ben disposto, ma la carne è debole. Pregherò per te ad ogni ora, tuo St. John. Il mio spirito, risposi mentalmente, vuol fare il bene e la mia carne spero sia forte abbastanza per adempiere la volontà del cielo, una volta che essa sia ben chiara nella mia mente. In ogni caso sarò abbastanza forte per uscire dalle nubi e trovare la luce della certezza. Benché fosse il 1° di giugno, la mattina era fredda e nuvolosa. La pioggia batteva sui vetri della mia camera. Udii aprirsi la porta principale della casa e dalla mia finestra lo vidi uscire attraversare il giardino, affondando nelle pozzanghere. Si inoltrò per la strada di White Cross, dove avrebbe trovato la carrozza. Tra poche ore seguirò la sua stessa strada. Pensai, anch'io avrò una carrozza che mi aspetterà a White Cross. Anch'io ho qualcuno da vedere, qualcuno con cui parlare prima di lasciare l'Inghilterra per sempre. Mancavano ancora 2 ore alla colazione. Trascorsi questo tempo passeggiando su e giù per la mia camera, meditando sull'avvenimento che mi aveva fatto prendere quella risoluzione. Richiamavo alla mia mente la strana sensazione che avevo provato e mi riusciva facile ricordarla con tutto quanto vi era di misterioso in essa. Ricordavo la voce e mi domandavo da dove potesse essere venuta, ma sempre invano. Mi pareva che fosse risuonata dentro di me e non nel mondo esterno. Mi dicevo che poteva essere stata un'impressione nervosa, un'illusione, forse, ma non potevo crederlo. Forse era piuttosto un'ispirazione. Quel meraviglioso urto di sentimenti era stato come il terremoto che aveva scosso le fondamenta delle prigioni di San Paolo e Sila. Aveva aperto la porta della prigione in cui era rinchiusa l'anima mia, l'aveva liberata delle catene, l'aveva strappata al sonno ed essa si era levata, tremante, ansiosa e stupita. Altre 3 volte il grido era risuonato alle mie orecchie atterrite, nel mio cuore sconvolto, penetrando il mio spirito che non aveva provato né spavento né sorpresa, ma aveva esultato nella gioia di aver avuto il privilegio di compiere con successo lo sforzo necessario per liberarsi del peso della carne. Fra pochi giorni, dissi fra me a conclusione delle mie meditazioni, saprò qualcosa di colui la cui voce mi chiamò la notte scorsa. Le lettere si sono dimostrate inutili, affronterò io stessa la ricerca. A colazione annunciai a Diana e Mary che partivo e che sarei stata assente al massimo 4 giorni. Sola, Jane? Mi chiesero. Sì, vado a vedere o a cercare notizie di un amico per il quale sono da tempo in pensiero. Esse erano convinte, da quanto io avevo spesso affermato, che non avessi amici all'infuori di loro. Tuttavia, con la loro abituale delicatezza, si astennero da qualsiasi commento. Soltanto Diana mi domandò se fossi sicura di stare abbastanza bene per mettermi in viaggio. Osservò che ero molto pallida. Risposi che nulla mi faceva soffrire quanto l'ansietà dalla quale speravo di poter presto liberarmi. Ma fu facile fare gli ultimi preparativi, non essendo molestata da domande o da insinuazioni, avendo già spiegato loro che non mi era possibile essere esplicita sui miei piani. Esse si adattarono con molto tatto e con molta saggezza a rispettare il silenzio di cui mi ero circondata, concedendomi il privilegio di agire liberamente, allo stesso modo come io l'avrei concesso loro in analoghe circostanze. Lasciai Moor House verso le 3 e poco dopo le 4 ero presso il pilastro di White Cross ad aspettare l'arrivo della carrozza che mi avrebbe condotta a Thornfield. Nel silenzio di quelle strade solitarie e di quelle colline deserte potei udire il rumore delle ruote quando ancora era lontana. Era la stessa carrozza dalla quale un anno prima ero scesa una sera d'estate, in quello stesso luogo, desolata, senza speranze, senza uno scopo per la mia esistenza. La carrozza si fermò al mio cenno e vi entrai, senza questa volta avere bisogno di dare la mia intera fortuna per ottenere un posto. Nuovamente sulla strada di Thornfield mi sentii come un piccione viaggiatore che torna a casa. Il viaggio durava 36 ore. Ero partita da White Cross un martedì dopo pranzo e il giovedì mattina il cocchiere si fermava ad abbeverare i cavalli ad un albergo lungo la strada, in uno scenario di verdi cespugli, di vasti campi e di colline a pascolo. Che dolcezza di profili e di tinte in confronto alle triste paludi di Morton. Era un paesaggio cui ero familiare, ero certa di essere vicina alla meta. Quanto dista Thornfield da qui? Chiesi a un ostalliere. Esattamente 2 miglia, signora mia, attraverso i campi. Il mio viaggio è finito, pensai. Scesi dalla carrozza, affidai il baule allo stalliere pregandolo di tenerlo in deposito fino a quando non glielo avrei chiesto. Pagai il viaggio, diedi la mancia al cocchiere e mi allontanai. Il sole brillava sull'insegna dell'albergo e potei leggere alle armi dei Rochester, scritto a lettere d'oro. Il mio cuore ebbe un sussulto, ero già sulle terre del mio signore, ma subito un pensiero attraversò la mia mente. Forse il tuo signore ha già attraversato la Manica, ed anche se fosse ancora Thornfield Hall, verso la quale ti stai affrettando, chi è vicino a lui? La moglie pazza, e tu non hai nulla da dividere con lui, non oseresti neppure parlargli, neppure vederlo. Stai facendo una strada inutile, non andare oltre, chiedi piuttosto informazioni alla gente dell'albergo. Essi potranno dirti quello che vuoi sapere, potranno risolvere subito i tuoi dubbi. Torna da quell'uomo e chiedigli se il signor Rochester è a casa. Era un pensiero ragionevole e tuttavia non potevo decidermi a seguirlo. Temevo di ricevere una risposta che mi avrebbe immersa nella disperazione. Prolungare il dubbio equivaleva a prolungare la speranza, nella cui luce avrei potuto vedere ancora una volta la villa. Davanti a me stavano le staccionate che avevo varcate la mattina in cui sorda, cieca, barcollante, con una furia vendicatrice che mi divorava, avevo lasciato Thornfield. Ben sapevo quale strada prendere adesso, come camminavo veloce, come correvo, come guardavo davanti a me per scorgere i boschi che mi erano familiari. Con quale emozione salutavo gli alberi, i prati, le colline. Finalmente mi apparvero i boschi scuri, rifugio di cornacchie, e un improvviso gracchiare ruppe il silenzio mattutino. Uno strano piacere si impadroniva di me e mi faceva affrettare il passo. Traversai ancora un campo, seguii un sentiero e intravidi i muri della corte e i fabbricati che si trovavano dietro la villa. La casa era ancora nascosta dal bosco. Voglio vederla prima di facciata, decisi, dalla parte dove l'intera costruzione colpisce chi arriva con la sua imponente nobiltà e dove posso scorgere la finestra del mio signore. Forse egli vi sarà affacciato, si alza sempre di buon'ora, forse sta passeggiando nel frutteto, pure nell'aia che sta di fronte. Potrei scorgerlo da un momento all'altro, non sarei così pazza da cogliergli incontro, non saprei dirlo, non ne sono sicura, e se lo facessi, cosa accadrebbe? Dio lo benedica, cosa accadrebbe? Chi ne soffrirebbe se io provassi ancora una volta la felicità che il suo sguardo sa darmi? Io deliro, forse in questo momento gli sta guardando il sole che sorge sui Pirenei o sui tranquilli mari del sud. Avevo rasentato il basso muro del frutteto e girato l'angolo. Vi era in quel punto un cancello che immetteva nei prati, ai cui lati sorgevano due pilastri di pietra sormontati da due grosse palle. Dietro uno di quei pilastri avrei potuto contemplare tranquillamente l'intera facciata della casa. Sporsi cautamente la testa, desiderosa di scorgere se le imposte della camera da letto fossero aperte. Da quel nascosto punto di osservazione si poteva scorgere tutto l'edificio, i merli del tetto, le finestre, l'intera facciata. Le cornacchie che volavano sopra la mia testa forse mi videro mentre posavo lo sguardo su quanto mi circondava. Mi immagino cosa avranno pensato, mi avranno creduta molto timida e cauta in un primo tempo e ritenuta poi eccessivamente audace e sconsiderata. Una sbirciatina da prima, poi un lungo stupore ad occhi spalancati, prima nascosta e poi di colpo in mezzo al prato, per fermarmi di fronte alla grande casa sulla quale i miei occhi si fissarono. Perché tanta diffidenza sulle prime avranno pensato le cornacchie e tanta indifferenza ora? A questo punto è necessaria una spiegazione, lettrice. Un innamorato trova la sua bella addormentata su un sedile di muschio. Egli desidera osservare il suo volto senza svegliarla. Cammina piano piano sull'erba, cercando di non fare rumore. Si ferma avendo l'impressione che la si sia mossa. Fa un passo indietro, per nulla al mondo vorrebbe essere visto. Tutto è tranquillo. Avanza di nuovo, si curva su di lei. Un velo leggero ne copre i lineamenti, lo solleva e si abbassa. Ora il suo occhio si prepara ad ammirare una visione di bellezza calda e fiorente, adorabile nel sonno. Come ansioso il suo sguardo, come la contempla con ardore. Ma d'un tratto solleva tra le braccia quel corpo che un momento prima non osava sfiorare con un dito. Chiama ad alta voce un nome, depone a terra il fardello e lo guarda smarrito. La chiama, la stringe, la chiama ancora e comincia a temere che nessun suono potrà più svegliarla. Egli credeva che il suo amore dormisse dolcemente e si accorge che ella è fredda nell'immobilità della morte. Ed io, che rivolgevo sguardi felici e timorosi a quella che un tempo era una casa, non vidi che rovine annerite dal fumo. Non era più necessario che mi nascondessi dietro il pilastro di un cancello. Non era necessario sbirciare attraverso le grate delle finestre, nel dubbio che la vita continuasse dietro di esse. Non era più necessario ascoltare le porte aperte o cercare di sentire rumore di passi sul pavimento o sulla ghiaia. Le aiole, i prati, i campi erano calpestati e devastati. L'ingresso non aveva più cancelli e la facciata appariva come l'avevo veduta una volta in sogno. Un muro aperto, altissimo e pericolante, perforato da finestre senza persiane, senza tetto, senza infissi, senza camini. Tutto era distrutto. E intorno regnava il silenzio della morte, la solitudine di un deserto. Non mi meravigliai che le lettere indirizzate agli abitanti di quel luogo fossero rimaste senza risposta, come se fossero state gettate in una tomba. Il tetro colore nero delle pietre rivelava che la villa era stata distrutta da un incendio, ma come era divampato, come si era svolto il disastro, quali perdite, oltre alla calce, al marmo e al legno, si dovevano piangere. La vita era stata spezzata, così come le cose, e in tal caso la vita di chi? Terribile domanda alla quale nessuno poteva in quel momento rispondere, non un segno, non un indizio. Camminando intorno ai muri in rovina e attraverso le stanze devastate, mi accorsi che l'incendio non doveva essere avvenuto di recente. La neve doveva essersi posata sugli archi vuoti. La pioggia invernale doveva aver percosso quell'edificio vuoto, poiché la primavera aveva ricoperto di vegetazione quei mucchi di rovine, erbe ortiche crescevano qua e là tra le pietre e le travi cadute. Ma adesso, dov'era l'infelice padrone di questo rudere? In quale paese? Chi vegliava su di lui? I miei occhi si rivolsero involontariamente all'antico campanile della chiesa vicino al cancello e dissi: divide forse ora l'angusta dimora di marmo di Dahmer, di Rochester? Queste domande richiedevano una risposta. Non avrei potuto sapere qualcosa se non all'albergo e decisi di ritornarvi. L'oste in persona mi portò la colazione in sala. Gli dissi di chiudere la porta e di sedersi. Avevo alcune domande da rivolgergli. Non sapevo da che parte cominciare, tanto era forte in me il timore delle risposte che avrei dovuto ascoltare. Eppure lo spettacolo che avevo testé contemplato mi aveva in certo modo preparata ad un racconto doloroso. Conoscete Thornfield Hall, naturalmente, mi arrischiai finalmente a domandargli. Sì, signora, vi abitai anche un tempo. Vi abitaste? Non quando vi ero io, pensai, perché il vostro volto mi è nuovo. Ero domestico del defunto signor Rochester, aggiunse. Il defunto? Mi sembrava di aver ricevuto in pieno il colpo che avevo cercato di fuggire. Defunto, mormorai, è dunque morto? Mi riferisco al padre dell'attuale signor Edward, spiegò. Respirai di nuovo e il mio sangue riprese a circolare, del tutto rassicurata da quelle parole che il signor Edward, il mio signor Rochester, Dio lo benedica, ovunque gli si trovi, era ancora vivo. Era per dirlo come l'oste, l'attuale signore. Consolanti parole. Mi pareva che d'ora in poi avrei potuto ascoltare qualsiasi notizia, per quanto impreveduta potesse essere con relativa calma. Poiché non era nella tomba, avrei anche potuto apprendere, credo, che si trovava agli antipodi. Il signor Rochester vive ora a Thornfield Hall? Domandai, naturalmente già sicura della risposta che avrei ricevuta, ma spinta dal desiderio di differire la domanda diretta del luogo dove realmente si trovava. No, signora, oh no, nessuno vive laggiù. Suppongo che siate forestiere che non sappiate che cosa è accaduto lo scorso autunno. Thornfield Hall è tutta una rovina, è bruciata al tempo del raccolto. Che terribile disgrazia, una così immensa proprietà distrutta. Neppure un mobile si è salvato. Il fuoco scoppiò nel pieno della notte e prima che arrivasse qualcuno da Millcote, l'edificio era tutto in fiamme. Fu uno spettacolo orribile, ne fui testimone io stesso. Nel pieno della notte, mormorai. Sì, quella era sempre l'ora fatale a Thornfield. Si conosce la causa dell'incendio? Domandai. Si è cercato di indovinarla, signora, e credo che non vi possano essere dubbi in proposito, signora. Forse voi non sapete, continuò, avvicinando la sedia alla tavola e parlando a bassa voce, che vi era rinchiusa una signora, ma una pazza, in quella casa. Ho saputo qualcosa di simile. Essa era completamente segregata, signora. La gente del posto per molti anni non seppe neppure se fosse ancora in vita. Nessuno la vide, soltanto alcune voci dicevano che vi era nascosto qualcuno nella villa e che la fosse era difficile sapere. Dicevano che il signor Edward l'aveva condotta seco dall'estero. E qualcuno pretendeva che fosse la sua amante, ma l'anno scorso avvenne una cosa strana, molto strana. Temetti di ascoltare la mia stessa storia e cercai di ricondurlo al fatto. E quella signora? Quella signora era la moglie del signor Rochester. La verità fu scoperta in modo singolare. Vi era una giovane signora, istitutrice alla villa di cui il signor Rochester. Ma l'incendio? Interruppi. Ora ci arrivo, signora. Dunque, il signor Rochester si innamorò di lei. La servitù dice di non aver mai visto nessuno innamorato come lui. Egli le era continuamente vicino e si erano soliti guardarlo. Parlo della servitù, signora, ed egli la stimava moltissimo. Nessuno come lui trovava così bella quella ragazza. Dicono che fosse piccola e sottile, come una bambina. Io non l'ho mai vista, ma ne ho sentito parlare da Lia, la guardarobiera. Lia le voleva bene. Il signor Rochester aveva circa 40 anni e la governante non ancora 20. Sapete che quando gli uomini della sua età si innamorano di ragazze giovani, ne rimangono come stregati. In breve, egli voleva sposarla. Mi conterete un'altra volta questa parte della storia, dissi. Ora ho le mie ragioni per voler sapere notizie sull'incendio. Non si sospettò forse di quella pazza, la signora Rochester? Appunto, signora, certamente è stata lei e nessun altro che lei a provocare l'incendio. C'era una persona incaricata di curarsi di lei, la signora Poole, una donna abile e fidata, ma aveva un vizio assai diffuso tra le infermiere e le guardamalati. Teneva presso di sé una bottiglia di gin e quella sera ne bevette un goccio di più. Era scusabile perché conduceva una vita assai faticosa, ma tuttavia era pericoloso perché dopo aver bevuto la signora Poole si addormentava e la pazza, che era maligna come una strega, le prendeva le chiavi di tasca. Usciva dalla sua stanza e andava a girare per la casa, commettendo tutte le azioni più insensate che le passavano per il capo. Si dice che una volta abbia quasi bruciato il marito nel letto. Io però non ne so nulla di questa storia. Tuttavia quella notte essa diede fuoco per prima cosa alle cortine della stanza attigua alla sua, poi scese al piano di sotto, si diresse alla camera che era stata dell'istitutrice, era come se fosse al corrente di quanto era accaduto e ne provasse rancore, e diede fuoco al letto, che per fortuna era vuoto. La governante era fuggita 2 mesi prima e il signor Rochester, che considerava quella fanciulla come la cosa più preziosa che vi fosse al mondo, non riuscì a sapere più nulla di lei. Ne divenne come pazzo, pazzo di dolore. Egli era sempre stato un uomo tranquillo, ma divenne pericoloso dopo che l'ebbe perduta. Mandò la signora Fairfax, la direttrice di casa, da alcuni amici che abitavano lontano da qui. Si preoccupò tuttavia di assegnarle una pensione vitalizia. La signorina Dell, una piccina che teneva con sé, fu mandata in collegio ed egli, troncata ogni relazione, si chiuse come un eremita nella villa. Cosa? Non ha lasciato l'Inghilterra? Lasciato l'Inghilterra? No, davvero? Egli non avrebbe voluto neppure varcare la soglia di casa. Usciva soltanto di notte e girava come un fantasma fino attraverso i campi e l'orto, come se avesse perduto i sensi. E secondo me egli era realmente fuori di sé. Non immaginate, signora, che uomo di spirito, coraggioso e intelligente egli fosse, prima di incontrare quella piccola istitutrice. Non era come molti altri uomini dedito al vino, alle carte, all'azzardo delle corse, e non era neppure molto bello, ma possedeva un coraggio e una fermezza di carattere come è raro trovare. Lo conobbi ancora ragazzo e da parte mia mi sono spesso rammaricato che la signorina Eyre non fosse precipitata in mare prima di giungere a Thornfield Hall. Allora il signor Rochester era in casa quando scoppiò l'incendio. Sicuro, e salì nelle soffitte quando tutto bruciava attorno a levar dai letti domestici ad aiutargli egli stesso a scendere. Tornò su per prendere la pazza, ma i domestici le avvertirono che essa era sul tetto sopra gli abbaini che agitava le braccia e lanciava degli urli che si sarebbero potuti udire a un miglio di distanza. La vidi coi miei occhi e la sentii con le mie orecchie. Era una donna robusta, con i capelli neri e lunghi. Li abbiamo visti ondeggiare tra le fiamme mentre era lassù. Vidi anche più volte il signor Rochester salire sul tetto passando attraverso il lucernario e l'udii chiamare Berta, avvicinandosi a lei. La pazza allora lanciò un grido, spiccò un salto e un istante dopo giaceva sfracellata sul lastricato. Morta? Morta? Ahimè, morta come le pietre sulle quali il suo cervello e il suo sangue si sparsero. Dio mio! Avete ragione, signora, fu una cosa spaventosa. Egli rabbrividì. E poi? Chiesi ansiosamente. La casa bruciò tutta e non rimase ritto che qualche rudere di muro. Non vi morì nessun altro? No, sebbene sarebbe stato forse meglio che qualcun altro fosse morto. Cosa intendete dire? Povero signor Edward, mormorò. Non avrei mai creduto di dover vedere una cosa simile. Qualcuno disse che fu la giusta punizione per aver tenuto segreto il suo primo matrimonio e per aver cercato di prendere un'altra moglie mentre la prima era ancora in vita, ma da parte mia ho pietà di lui. Avete detto che è vivo, non è vero? Esclamai. Sì, è vivo, ma molti pensano che sarebbe stato meglio non fosse sopravvissuto. Perché? Perché? Il sangue mi si mescolava di nuovo nelle vene. Dov'è? Chiesi. È in Inghilterra? Ahimè, sì, è in Inghilterra e credo che non potrà andarsene mai più. È impossibilitato a muoversi. Era per me una vera agonia e quell'uomo sembrava deciso a protrarla ancora. Egli è completamente cieco. disse finalmente, completamente cieco. Mi ero aspettata di peggio. Avevo temuto che fosse pazzo. Radunai le mie forze per chiedere che cosa avesse provocato quella disgrazia. Il suo coraggio, signora, e diciamo pure la sua bontà. Egli non volle lasciare la casa prima che tutti fossero usciti, e quando finalmente si decise a scendere dalla grande scala, dopo che la signora Rochester si era gettata dal tetto, vi fu un terribile crollo ed egli fu sepolto dalle macerie. Fu tolto dalle rovine ancora vivo, ma gravemente ferito. Una trave era caduta, in modo da proteggerlo in parte, ma un occhio era stato colpito e una mano così schiacciata che il signor Carter, il chirurgo, non poté fare a meno di amputargliela. L'altro occhio era stato investito dalle fiamme e così perdette la vista anche da quello. Egli ora è cieco e storpio e senza nessuno che si curi di lui. Dov'è? Dove vive? A Ferdin, un castello in una sua tenuta a 30 miglia da qui, un luogo solitario. Chi abita con lui? Il vecchio John e sua moglie. Non ha veduto nessun altro. Pare che sia così abbattuto. Avete una carrozza? Abbiamo un carrozzino molto grazioso, signora, che sia attaccato immediatamente. Se il vostro cocchiere potrà condurmi a Ferdin prima che sia notte, pagherò a lui e a voi il doppio di quanto siete soliti domandare.